払い切り。La ragione. Voglio sentirmi cantare di ragione. La ragione non è in effetti un'opinione, non è un'opinione. Chi ha più cash ha più ragione da subito. È come dire di aver già vinto il totocalcio senza averci mai giocato. Insomma, un plagio su una traccia. Dovresti essere Maradona e Roberto Baggio per vincere contro Scedi. Due pechegno e poi, vedi, non è mica tutto qua, non è mica tutto facile, non è tutto parlare come con l'aldilà. Fra, all'attraverso la mia bocca tu puoi farla. Se cerco di essere ragionevole tutti mi dicono che non ho ragione, vedi. Se ci pensi chi ha ragione, c'è i soldi, il cash non è un'opinione. Perché ciò che puoi comprare è vero, ciò che puoi comprare è real. Ciò che puoi comprare, ma la visione non si fa col cash, quindi l'hanno messo attraverso il canone dell'insanità, la volgarità dell'uomo che rappa è oscenità. La rima rimane disonesta perché la puoi quantificare soltanto attraverso MTV, un palco generalmente posto qui o là. Dovresti cantare scrivendoti tutto, ci dovresti mettere 20 anni di lutto, tipo il primo mio mixtape. Non l'hanno cagato perché vedi, gli incompetenti sono come lei, che pensano soltanto che io canto freestyle. E lei sente le cose dentro di sé in dilessima di Claver. Ah. Talking about reason. More precise, more imprecise. Don't think about the mind like a telepathic. It's a mad piece. It's a mad piece. Maybe if you have $1 million, this is a reason why piece, yeah. Or if you are a guru of architecture, for you is not the perfection. Yo. As a guru, I'm not. So, thinking about something cultural, you have maybe 2, 3, 4, 5 degrees or a Nobel, vedi? Non sono mica scedi, è per questo che mi ritengono irragionevole. Se ci credi puoi fare di più, dicono, lo dice anche Iago in TV. Ridicolo, frate, non so che Iago è il nuovo Michelangelo. Dice che se vuoi puoi diventare meglio di lui. Sarà, ma se vedi questa rima potrebbe durare un'eternità. Ma in realtà durerà un'oretta scarsa. Parlare di ragione con me è come parlare di denaro con te. Non ci troveremo mai, io perso dentro ai guai miei. Ossia, vedo nella mia mente niente, è molto più ragionevole che tutto, perché tutto ti può portare a confondere. Vedi, se sei abbastanza intelligente lo puoi capire, ma c'è discriminazione su questo. Tutto che puoi capire, lo puoi capire forse con €1 milione in banca. Ritorniamo sul cash e vabbè, potremmo parlare tutta la traccia di un G-Cash. G, ormai è Gucci, liscio, G ben chic. The way you dress is important for reason, but it's been so important for rhyme. I understand, sei un violinista che suona sotto i portici e chiede l'elemosina in conto. Se sei invece un prodigio e suoni per la scala e l'en alta. Talking back about Reason mixtape. Parliamo di cos'è cognizione di causa. Vedi, la rima cerca l'ispirazione, la ragione cerca l'appiglio per essere ragionevole circa e riguardo a ciò che vuole la cognizione, ossia una causa. Ok? causa ed effetto è come Epicuro, la materia vale tutto. Sì, perché se voglio una Porsche, la mia ragione sarà una Porsche. Yeah, indovinato il trucco. La cognizione di causa è soprattutto avere la capacità di discernere, di cogliere il ragionevole riguardo a un dunque. Io, se quindi parlo di me, dovrei capire chi sono io e non te, e quindi cosa parliamo di te? Facciamoci piuttosto un tè. Essere zen nell'età delle guerre non è ragionevole, ma è pace. È più ragionevole parlare di guerra allora, perché se la situa è la guerra, devi essere abbastanza agguerrito e non pacifico. La pace, guarda i monaci presi a schiaffi dai soldati cinesi. Beh, quella è che la ragione, vedi, gli altri sono morti irragionevolmente, beh, allora sì. La pace non è, come vedi, essere ragionevole, ma è uno stato di schizofrenia irraggiungibile in uno stato di psicoguerra. Questa roba sicuramente Dio la osserva e ci prega sopra. Tranquilla, tranquilla, qui non è il fibroglia, non è una canna ora che mi fa parlare. I chose reason or I chose rhyme. Rhyme or reason, rhyme or reason, rhyme or reason, rhyme or reason, rhyme or reason, rhyme or reason. Mi chiamo Dario, vivo più veloce di un jet. Mi chiamo Dario, vivo più sotto di un cobra tipo Buddha. Ritroverò la mia illuminazione tipo Urta. Urta la verità e scuotila per trovare nelle tasche 50 cents. Urta la verità e scoprila. Urta la verità e scoprila, è un po' come sparare al demonio. Rimango qui, cadmio, nelle mie vene, carmio anzi. Il caro Matteo ti saluto su una traccia bubu setete. Avra cadabra sta rima vaga. Per l'indefinito vedi, questo è rima e non è ragionevole l'oltre. L'oltre che scopri soltanto attraverso rime. Talking bad about a rhyme now. First part is reason, second part is rhyme. Ragionevole, ragionevole parlare se... Se parlare bene, ragionevole. Ma scrivere è un inchiostro che fa fatica ad uscire, soprattutto dalle lacrime che ti tieni dentro. È un flow, flow che pazientemente aspetti e poi con una bomba ti inietti in vena. E non è la droga di cui sto parlando, ma è tutto il veleno che la gente ti mette dentro e che sputi soltanto. Originalmente I'm so original su una base, frate, fuori parlando di me sono niente. Potrei stare zitto e fare scena muta e farei meglio, sai, farei meglio solo ad apparire. Apparire per esempio è ragionevole, yo. Fatti un post, fatti un post, fatti un tweet, fatti un tweet. Retweetami quando vedi sta faccia da modello, bitch. Retweetami quando vedi sta faccia da modella, tweet. Ecco, questa è una parte ragionevole. Bellezza è un canone di sicura. Spontaneità di sicura. Fredda materia di ragione. Ciò che è bello prevede un impegno almeno con se stessi per apparire degno di sé. Amare sé è sicuramente ragionevole, cerchi risposta e la traccia giusta. Amare sé come se gli altri fossero meno o almeno uguali. Perché distinguersi dell'essere uguale significa almeno distinguersi per sé meglio, vedersi bene, tenersi bene, vestirsi bene è GG. Oh, ci sono pure le G delle attitudini, I, perché è più inconscia l'attitudine del G, in termini psicologici è sapere fare un po' di tutto, aver almeno provato paponicamente tutto, lo vedi, lo diceva pure mia nonna, prova tutto nella vita, non si vergogna di nulla, rifarebbe tutto lei per esempio. Ritorniamo a parlare di ragione, siamo nel riguardo dell'oltre, dell'occulto, mignetto frasi che vengono dal tutto, eppure non è ragionevole ciò che sto dicendo, ma è rhyme. This is my rhyme, because the rhyme is a crime, cause rhyme thinking of a reason time. Puoi parlare di tutto, l'oltre, per esempio oltre la ragione, ma è in parte sotto. Per esempio il freestyle ti permette di parlare lì, al tempo. Se non te lo prepari puoi parlare sfrequenziando a tempo su ogni ritmo che sfrequenzo, tipo Caparezza, Lorenzo. Rimane su questa traccia meglio, sicuramente meglio di te, che hai visto solo God. Beh, io ci ho parlato, m'ha detto che tu ieri eri uno sfigato, m'ha detto di non preoccuparmi dopo tutte le lacrime che il mio cuscino ha seccato. C'è uno strato di substrato di ragione persa in ogni lacrima riversa attraversa la mia mente perversa, troverai soltanto l'infinito. Per esempio questo potrei parlare di infinite, between reason and rhyme there is infinite. Or better, if you down your story, eternity. L'eternità è soltanto quando cerchi la storicità di tutti i tuoi versi, Ma se parti dall'infinito, beh, non è tipo che hai perso o che non sei entrato in un determinato fottuto vecchio libro. È che stai cercando ancora tutti i tuoi versi migliori, quindi versali cuori nei locali, e tornando a casa si scriverà versi più densi. Non è che se vai per a spendere stipendi in posti stupendi allora sei ragionevole, ma non è neanche il fatto di esserlo nel ragionevole, dipende che cazzo ti versi di quei versi dispersi, che poi tornando a casa tu ti senti perso come se vedessi in quel cuore come G dice versi cicatrice in quei cuori, troverai i tuoi splendori. Parlo un po' degli usi and the abusi of something drugs in my life. Per trovare le parole ho versato più di un liquore. Ma adesso non ho bisogno di droghe, statemi lontano droghe per favore. Perché nelle droghe perdi tutto. Perdere o avere ragione. Oh. Cerco risposte, cerchi risposte, beh ti do le mie, tu dammi le tue, faremo a scambio tipo figurine, anzi tipo da ragazzi quando ci si faceva le stesse signorine. Ma ora devo mettere su famiglia, devo essere un capo di famiglia degno, trovarmi un lavoro, questo dice lo Stato, questo è ragione. Ma mettiamo che mi volessi guadagnare il pane con l'arte, beh di poesia sì certo non si muore ma neanche si mangia. Di poesia non si mangia come diceva quel vecchio signore. Oh, ma i tempi sono diversi, sì per chi ha più ragione, ritorniamo al tempo. Oh, in cui ragione significava essere un riccone. Beh poi c'è stato G che dice che Oh, però per chi? Però per chi? Beh, gli stessi che ti seguono sono quelli che non lo dovrebbero fare. G di queste rime ne ho in bocca un arsenale. Mi mitro al contrario, mitra nel mio mitra, nel mio mitra, nel mio mitra. E poi bam, nella mia bocca esplode stavolta con l'autorizzazione di 20G nella mia bocca. Quando parlo mi sparo dritto in faccia, così per te non senti che è una minaccia. Per esempio questa non è ragione ma è rhyme, per favore. Talk about a reason. Talk about a reason, rewind. Which is the memory when memory arises. Memory, memory, memory, memory. Be careful about memory. La memoria è ragionevole solo se non ci hai bevuto sopra. La memoria è un momento di assoluta. Boh, dicono storia, gloria. È la tua storia che ritorna nella tua mente. Di certo, frate, non è che se ti ricordi sei meglio. Ci sono ricordi, frate, inventati. Nella mia mente ci sono più che memorie, 20 bugatti prima delle memorie. Come se avessi 20 bugatti avrei memorie più vere. Non è questione di essere ipocriti, è questione di averci soldi per metterci soldi davanti agli occhi. Beh, puoi riavere le memorie anche da veramente, ma è povera la mente che pensa alle memorie, che ti serve avere indietro le memorie, cerca una new life. New life, new life, new life, still I'm cool, be crying, be crying, be crying, telling about my mind. Non sono Eminem, ma almeno non sono te, quindi che cazzo dici? Meh. La ragione essere se stessi, essere spontanei persino tra le rime. La ragione ci sono circa 3 milioni o 4 milioni, mi punto un mitragliatore in bocca a diversi. Ci sono poeti ricordati pure da poveri, tipo Van Gogh, tipo tutti quelli che conosci li conosco in parte tu non conosci quelli che conosci te e me. C'è una bella differenza, essere ragionevoli e pensare che io non sono te, tu non sei me. Beh, ma questo è capire essenzialmente una parte a base della storevolezza, della durevolezza, della longevità e della duttilità di una ragione. E non è che essere un personaggio ragionevole, per esempio, e se ti dissassi io che mi caghi, oh frate, ma se mi caghi, mi caghi, cioè non è che mica mi escludi, mi stai cagando, quindi eluditi, eludi i tuoi versi. Metti in bocca un cannone, coglionate che versi in quel liquore col mio nome. Vorrei vederti morto, beh, quanto mi hai voluto vedere morto te. Questa per esempio è una sottrazione di ciò che è moltiplichevole. Per esempio per molti questa non è una grande situazione, per esempio per molti per me non è un grande boom, per favore. Vorrei essere quel tuo mitragliatore, dice un bro che mi followa, mi twitta in testa. E se questa non è telepatia cos'è? È soltanto la più grande storia gangsta. Per esempio questo è rhyme, non è ragione. Per esempio questo è rhyme, non è ragione. Per darti un esempio, vorrei cagare me stesso perché è una Gucci, Gucci te Lorenzo. confondendo Pepper con Sheet si può fare dell'irragionevole, beh, puntati una penna nel culo now, cos'è? La mia vita è stata per metà dramma, per metà un film musè. The drama is over, cause the pain. Feel the pain, feel the pain. This is the game, this is the game. To feel the girl and love her pain. G. Feel the pain, feel the pain. This is the war game. I feel all my class, school pain. No matters matter if you does matter if you does no matter if you speak about this. Lorenzo, you made me cry, you made me lie, but you know I'm white. White life, white girl, don't feel the pain about my reason again, again, again. I feel the shoes rhyme, then sometimes I feel the reason again, like a hypocrisy message. From my psycho, Lorenzo, ti prescrivo un farmaco perché secondo me la tua rima non è abbastanza cortese, non è abbastanza autostima. Ti stimo, me, stimami su questa traccia. Ricorda, ho fatto breccia nel cuore più di qualche ragazza, mettendoci più di qualche parolaccia, beh, ma appunto è rima. È rima, è una volgarità assolutamente diversa, è la poesia che si esprima con tutta la sua estroversa passione, è la rima che si esprima attraverso la sua totale spontaneità, la sua spontanea conclusione. E se sento un teatro dentro me, oh, quel giorno esplodevo, esplodo, esploderò dentro un testo, dentro una traccia. Canta, canta che ti passa, beh, esiste esattamente una terapia che dice questo nella psicologia moderna. New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, New Age, this is not a theorema of a privacy of a therapy of sport. In my lyrical love, my pain and fucking dizzy catching a motherfucker real the DC in time. Oh, this is not a reason, but this rhyme made a reason. New Age, New Age, New Age. Follow New Age, New Age, medicine, New Age. Zen culture. About the Tao. About the Tao. My doctor prescribed me Abilify and some Valium, but I say I'm at the Tao time. This is not no a reason, this is not a rhyme, this is a Tao time. New Age, New Age, New Age, follow the cultural New Age. New Age, New Age, New Age, in a lot of flower. I'm not a poser, I'm a poet. New Age, New Age, New Age. Follow the spirit flow by yourself in a Tao flower position. New Age, New Age, New Age. Follow New Age, New Age culture, New Age. New Age, New Age, New Age. She say, she say, she say, New Age. No drama in a tower flower position. For me, doctor prescribed me a potion. I know I'm insane, I'm a cold for love. Love maybe is not a reason. But it's not like a just rhyme. And maybe I just no have to explain you why. But a lover is against the concept. Like a Snoop Dogg taking the best classic rap time. Lover is not against drama. But if a drama for a guest is love, boo, non so. Rimango attualmente un boh. Per l'amore io dovrei esserci nato, ma non so. Forse non è mica il tempo in cui dovevo nascere a tempo. Su questa canzone ti spiego un paio di concetti su l'amore fa, l'amore che ti passa. Non è mica solo un capta che ti passa, perché in fondo l'amore incanta. Ma esiste anche l'odio profondamente. L'odio è la soluzione. Nel tempo in cui l'amore con l'amore sembri un coglione, mentre l'odio ha più ragione. È ragionevole odiare dopo che ti hanno odiato? Beh, non è ragionevole odiare se sei amato. Now, ora odio tipo Hitler, vaffanculo, odio anch'io. Ma non è la tua stessa opinione. C'è un punto di amore nel mio odio. Ciò che dici è assolutamente ragionevole. Non è soltanto odio, l'amore odia. I fuck you, hate you like Eminem. Cause I love you, I hate you. Cause I love you, you will love. It's not correspond me. Cause now I think about the hate and love. Hate and love in a town. This is an evolution. Hate and love in a danza, in a circular danza. Hate and love in a danza, hate and love in a stanza. Hate and love in a danza, this is against a love. Hate and love in a danza, maybe this is another this in time. But this is the hate and love in a danza. Maybe inside, is it as a love in a danza? Don't express external this time. Hate the love in a danza. Is this best to show is a love? Hate the love in a danza. On my foot, in my angel spoke. Hate the love in a danza. Ever 1 foot for a love, 1 foot for the hate. And together danza. In a natural part of my heart. But also hate have a time of love. And love also hate a time of love. Hate a love in a danza. Hate a love in no. Hate a love in a danza. Ever yeah, all time of love. Hate a love in a danza is like, oh I love, but I know the love. I ever spoke this is in my mind to understand if I love you or not love me. Hate the love in a danza, in a soul. Is a psycho think about ceremony. Is a love in a danza, is a date or love. Hate the love in a danza love. Is a dance of love.